Tempo di Sport. Pochi minuti dall'esordio dell'Italia all'Europeo, Italia che non arriva favorita a questo Europeo, ci troviamo subito contro invece i campioni del mondo, tante novità che andremo a scoprire fra pochissimo, parleremo però anche di Formula 1, del ritorno della Samp in Serie A, di come si è andata nelle finali di basket sia in Italia che negli Stati Uniti. Claudio Arrigoni per Radio 24 con Giorgio De Luca in redazione e Fabio Cantadori in regia. Dicevo, davvero tante novità in questa Italia-Spagna che comincia fra pochissimo. C'è anche naturalmente il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sugli spalti e c'è anche qui molto più indegnamente per noi, ma soprattutto per Mediaset, Pierluigi Pardo, telecronista appunto di Mediaset. E dicevamo, Pierluigi, ci sono un po' di novità da raccontare subito. Ciao Claudio, non ambisco alla massima carica, assolutamente. Non ancora almeno, non ancora. No, mi sento di escluderla, non c'è una discesa in campo. No, vi do subito la notizia più sorprendente, che forse sono già arrivata via Twitter. Insomma, la Spagna sembrerebbe confermata senza attaccanti di ruolo, quindi senza Torres, con Cesc Fabregas che giocherà da falso 9, come dicono loro, quindi con 6 giocatori di straordinaria qualità, devo dire soprattutto 4, Xavi, Silva, Iniesta e Fabregas, ma insomma pur sempre 4 centrocampisti, e con un modulo che, se vogliamo giocare un po', è un 4-6-0, in realtà poi sarà un 4-3-3 con Xavi che giocherà sulla linea dei centrocampisti assieme a Xavi, Alonso e Busquets, e con Silva, Fabregas e Iniesta che ruoteranno nelle 3 posizioni più avanzate. Italia invece confermata, e dovrebbe essere 3-5-2, appunto, con Giaccherini preferito a Balzaretti a sinistra, con Bonucci che ha visto il ballottaggio con Robbone e con Cassano Balotelli davanti. Devo dire, sei stato fra i primi a dare questa notizia in Italia, anzi forse il primo in assoluto, attraverso il tuo account di Twitter, quindi noi l'abbiamo fra l'altro saputa proprio attraverso Twitter, attraverso il tuo account. Questa è una notizia che un po' lascia sorpresi. C'è una motivazione particolare secondo te per non far giocare il Niño? Ma secondo me il Niño non sta benissimo, la Spagna ha certamente... Il Niño e Torres, naturalmente. Torres, ma sai, noi sempre in sport abbiamo un pubblico che può dare lezioni a noi, però insomma... Questo sicuro. Ti dico che sicuramente la Spagna ha più talento a centrocampo che in avanti. Torres era in questi giorni in ballottaggio con Negredo per una maglia titolare, sembrava comunque il favorito, poi hanno anche Llorente, ma insomma questa è una squadra che arriva dal punto di vista del 9, dell'attaccante senza via, che è uno dei pochissimi problemi che può avere questa squadra, e quindi da un certo punto di vista, diciamo, di efficienza e di quantità di talento, è chiaro che rinunciare a uno come Fabregas era particolarmente complicato. Io credo che ci sia anche una valutazione di carattere tattico. Penso che Del Bosque voglia diciamo chiamare fuori i difensori centrali dell'Italia, tra l'altro insomma vedremo presentare una difesa a 3 che è un identico assoluto nella storia della squadra azzurra, e cercare di colpirci nelle penetrazioni, quindi negli inserimenti da parte dei centrocampisti. Quindi bisognerà stare molto attenti a non farsi risucchiare troppo, a tenere perfettamente la posizione. Sulla carta può sembrare un vantaggio, ma insomma sicuramente avremo meno punti di riferimento. La nostra difesa inedita all'esordio avrà, diciamo, uno schieramento con il quale confrontarsi sicuramente meno prevedibile. 800240024 per chi volesse contattarci. Siamo insieme a Pierluigi Pardo, uno dei telecronisti di punta di Mediaset. Pierluigi, hai seguito il campionato italiano, hai seguito anche il campionato inglese con Balotelli, conosci perfettamente Antonio Cassano, hai scritto 2 libri con e su di lui. È una coppia inedita davanti, e che cosa ci può dare, Pier? È una coppia che avrebbe avuto bisogno di tempo per conoscersi, perché veramente quello che un po' dispiace, ma insomma adesso vedremo, poi la storia del calcio vive anche di momenti di Big Bang nei quali poi le cose succedono e c'è sempre un inizio, però è chiaro che sarebbe stato bello poter arrivare a questo europeo dando a Cassano e Balotelli la possibilità di conoscersi, di fare partite insieme. Invece i problemi che hanno avuto tutti e due, ovviamente Cassano di più dal punto di vista fisico, perché sono fuori dal 29 ottobre fino a metà aprile, e Balotelli comunque con delle difficoltà, oltre al fatto che di tempo per lanciare ce n'è veramente pochissimo, soprattutto per la morte del povero Morosini, con lo spostamento della giornata di campionato è saltato pure quello stagio di 3 giorni che Prandelli aveva organizzato per metà aprile, beh, insomma, questi due si conoscono pochissimo. È evidente che Balotelli è un talento mostruoso, ha una velocità di calcio, una potenza incredibile. Credo che il suo margine di miglioramento sia nel giocare con di più con i compagni. Credo che questo, ma non riguarda solo Cassano, riguarda tutti i compagni con i quali avrà a che fare. Insomma, deve diventare, e infatti tutti lo ripetono, tutti lo dicono, insomma, non, al di là degli aspetti caratteriali, quello sul quale Balotelli deve crescere è proprio nella disponibilità nei confronti della squadra, fare i movimenti giusti per la squadra. Cassano non l'ho visto in maniera straordinaria fisicamente negli allenamenti, ma conoscendolo un po', gli allenamenti sono per lui, insomma, non sono una cartina precisa di tornasole per capire come sta. Poi la partita può sconvolgere in positivo o in negativo qualsiasi sensazione. Sicuramente negli ultimi due giorni è stato un po' nervoso, un po' teso, non era il solito Antonio, quindi il solito che scherza in ogni momento come era stato la prima parte del ritiro, ma anche questo può essere un buon segno, perché poi vuol dire evidentemente che è arrivata l'adrenalina. Lui questa partita l'aspetta da mesi, lui si è fatto male il 29 ottobre e con tutto rispetto per il Milan e per quello che sarà il suo futuro a livello di club, la principale fonte di ispirazione per tornare a giocare a pallone è stata questa nazionale, che è stata disegnata su di lui, che con lui Giuseppe Rossi ha fatto delle cose straordinarie nel girone, e adesso ci siamo. Eh sì, ci siamo. 349-238-6666 per i vostri sms e poi naturalmente per chi vuole chiamare 800-2400-24. Vi convincono le scelte di Prandelli queste, questa dunque la formazione: Pierluigi dell'Italia, Buffon, poi Bonucci, De Rossi, Chiellini, Maggio, Marchisio, Thiago Motta, Giaccherini, Pirlo, Balotelli e Cassano. Ecco, De Rossi che gioca in difesa è una scelta quasi obbligata. Mi sembra di capire che ti convinca la scelta di Prandelli, e questo vorrei chiedere anche ai nostri ascoltatori. Ma è una scelta che è nata secondo me dopo Italia-Russia, e io ero a Zurigo e le domande gliele abbiamo fatte noi, gliel'ho fatta anch'io, la domanda sulla difesa 3, insomma, io credo che la partita a Zurigo non sia stata così negativa per quanto riguarda i primi 70 minuti dal punto di vista offensivo, perché comunque un po' di palle gol le abbiamo create anche importanti. Sono d'accordo, dal punto di vista difensivo abbiamo sofferto tantissimo. Maggio non mi è sembrato in una condizione straordinaria, però insomma, sono passati dei giorni, speriamo che sia migliorato. È chiaro che partendo 20 metri più avanti Maggio può avere un vantaggio, scusa il gioco di parole, da questo tipo di situazione. Stesso discorso per Giaccherini o per l'eventuale Balsaretti, insomma. È chiaro che De Rossi lì in mezzo è un azzardo, tutto sarebbe stato infinitamente più facile se Barzagli non si fosse fatto male, perché a quel punto tu potevi prendere un pacchetto completo di gente abituata a giocare a tre molto bene nella Juve di Conte e metterli lì in mezzo e diciamo minimizzare il rischio di una novità così strutturale. Ovviamente Barzagli si è fatto male, però la strada è comunque quella. E insomma, io credo però che non si debba sottovalutare quello che ha detto Prandelli ieri, cioè io credo che lui alternerà situazioni tattiche, sta lavorando a tante situazioni tattiche e poi soprattutto ho la sensazione che da qualche giorno sia un po' cambiato il clima, cioè sia aumentata l'intensità degli allenamenti e ci siano nuovamente sensazioni positive. In qualche modo la mia sensazione è che la nazionale abbia un po' voltato pagina dopo le paure e ovviamente le polemiche feroci che c'erano state nella prima parte, ovviamente anche di argomenti extracalcistici. Sì, sono d'accordo con te, Pierluigi. Io credo che la duttilità che sta mostrando, ha mostrato Prandelli, sia uno dei lati positivi. Per chiudere con te, Pierluigi, un pronostico secco su quello che potrà essere fra pochi minuti Italia-Spagna. Ma guarda, io sono molto scaramantico, quindi dico che vince facilmente la Spagna. No, io che sono sinceramente curioso. Io credo che noi dovremo essere bravi, qualunque sarà il risultato di questa partita, a voltare pagina, perché la nostra qualificazione ce la giochiamo contro Croazia e Irlanda. E se riusciamo a battere Croazia e Irlanda siamo sicuramente nei quarti, andiamo a giocarci un quarto di finale contro l'Inghilterra, la Francia, chi sarà, che comunque ci vedrà giocarsela alla pari. Quindi poi lì può cominciare tutto. Questo è chiaramente la squadra più forte al mondo e noi arriviamo non bene, arriviamo in ritardo. La partita con la Russia l'altro giorno l'ha dimostrato, siamo più indietro degli altri. È un gran peccato, ma è così. Per cui oggi non mi aspetto una partita facile. Poi però insomma c'è l'esempio della Grecia dell'altro giorno, c'è l'esempio della Danimarca. Queste competizioni sono brevi, sono secche. Ogni episodio, ogni filo d'erba, ogni gesto tecnico può cambiare la storia, può cambiare gli umori psicologici della partita. Non è un campionato di 38 gare. Se ci fosse un campionato di 38 gare noi non potremmo mai competere con la Spagna, però in una partita secca o in un torneo breve, perché no? Velocemente, scusami Pierluigi, tu, il sottotitolo di uno dei tuoi libri di Cassano era "Se poi fa caldo gioco all'ombra". Che tempo c'è? Cioè Cassano giocherà tranquillamente? Sì, sì, no, cioè, il tempo è buono, siamo nel nord della Polonia, fa abbastanza fresco, ma è stata una giornata complessivamente di sole, è una città tra l'altro bellissima. Oggi c'è stato anche l'incontro di Napolitano con l'Ecva Luesa. Questa è una città eccezionale che si è trovata a che fare con situazioni storiche, ovviamente l'invasione del 1939, poi la nascita del movimento Solidarnosc, infinitamente più pesanti e più dense di una partita di calcio pure piena di adrenalina come questa. Tra l'altro quella frase lì è una frase riferita proprio alla brevissima esperienza di Cassano calciatore con Prandelli, in quei pochi giorni in cui Prandelli allenò la Roma. Cassano veniva dal suo europeo migliore, quello del 2004, si era un po' montato la testa, aveva caldissimo in un'amichevole a Perugia, era in netto ritardo, Prandelli gli diceva di giocare sotto della parte al sole, lui giocava sotto la tribuna per cercare di abbassare un po' la temperatura, ma insomma era veramente un'altra persona dal punto di vista proprio della maturità. Poi, a lei allora adesso... Lui può sorprendere in qualsiasi momento nel bene o nel male, quindi mai mettere una mano sul fuoco, ma insomma che sia sicuramente maturato. Su questo mi sento abbastanza tranquillo. Assolutamente, siamo un po' in ritardo col traffico, lo lanciamo adesso. Grazie, Pierluigi Parlo. Ciao, Danzica, grazie. A tempo di sport. C'è anche il Presidente della Repubblica, mi abbiamo detto, a Danzica, è arrivato per cominciare una visita di Stato in Polonia che si concluderà martedì, e Napolitano ha deposto una corona di fiori al momento ai caduti ai cantieri navali di Danzica, e poi nel pomeriggio appunto è arrivato per vedere la partita. Andremo a sentire Napolitano, ma prima sentiamo Matteo da Cassano d'Adda. Matteo. Pronto, buonasera a tutti. Buonasera. Volevo discutere con voi riguardo alla nuova formazione di Prandelli, e in particolare quello che spero sia un'ottima soluzione per la partita contro la Spagna, la nuova difesa a tre con De Rossi in difesa. Spero tanto che De Rossi riesca a sfruttare le sue ottime capacità che ha sempre avuto a centrocampo, soprattutto durante il mondiale che tutti ricordiamo, Germania 2006. Spero che potrà difendere molto bene insieme ai due terzini l'operato di Buffon in porta. Beh Matteo, penso che la scelta di De Rossi sia stata un po' obbligata da quella che dalla situazione contingente che si è venuta a creare con Barzagli. Prima, scherzando con Alessio Fabrizio in redazione, dicevamo l'Italia non ha difensori, si presenta senza difensori, la Spagna si presenta senza attaccanti, quindi è un po' strano, no, però io sono abbastanza fiducioso su questa scelta. È una scelta che comunque è ponderata da Prandelli, anche se è arrivata proprio per una situazione contingente, però credo francamente che De Rossi sia un giocatore su cui si può fare affidamento anche in quella zona. Vi ricordo il numero per chiamarci 800 24 0024. Andiamo allora a sentire il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e le sue parole di incoraggiamento. Le crisi economiche o finanziarie sono una cosa, e altra è la continuità della presenza delle nostre nazioni in occasione di una grande competizione sportiva come questa. Naturalmente penso che sia l'Italia sia la Spagna, voglio dire le opinioni pubbliche, i cittadini dei due paesi si augurano un successo che può contribuire anche a incoraggiare di fronte alle difficoltà del momento i nostri paesi. Ma ovviamente vincerà uno solo. Mi pare una cosa positiva che ci siano delle manifestazioni di spirito unitario europeo, è molto importante che si consolidi su tutti i piani. giustamente nel suo ruolo il Presidente della Repubblica e guarda anche agli aspetti sociali che può avere comunque una vittoria sia da una parte che dall'altra. Naturalmente a questo punto anche per questo ci aspettiamo una vittoria dell'Italia. Un sms che è arrivato al 349-238-6666, spero che si perda così risparmiamo un po' di euro. Beh, questo va in controtendenza rispetto a quanto ha detto il Presidente della Repubblica. Ha parlato oggi anche ai microfoni della RAI anche Cesare Prandelli. Il cercare di ricompattare un gruppo quando per qualche giorno non si è parlato di calcio è abbastanza semplice quando ci si allena e si lavora sul campo, perché noi siamo dei professionisti, sappiamo fare questo lavoro. Altro tipo di lavoro diventa un po' più complicato e quindi i ragazzi sono stati bravi in questi giorni a pensare solo e esclusivamente a quello che devono fare questa sera. Pensare alla gara di oggi, ma Prandelli probabilmente non sapeva bene ancora la formazione che avrebbe schierato la Spagna, perché sentite cosa dice riguardo all'atteggiamento che dobbiamo tenere. Noi vogliamo fare la nostra partita con grande rispetto, con grande cercare il grande equilibrio, però dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo essere l'Italia capace di difendere in 10 ma capace anche di attaccare con tanti giocatori. Senza gioco non si può raggiungere risultati. Essere capaci di difendere, in questo caso dobbiamo capire esattamente quale sarà l'atteggiamento invece spagnolo, perché lasciando fuori Torres e senza un attaccante di ruolo probabilmente ci si aspetta un atteggiamento un po' meno offensivo, ma la Spagna è campione del mondo, potrebbe essere lì per vincere ancora l'europeo dopo averlo già fatto. Ci sono state le parole di incoraggiamento del Presidente della Repubblica, ci sono anche quelle del Presidente del CONI Petrucci, che è stato sentito da Aurelio Capardi per la RAI. Nello sport abbiamo una grande fortuna noi, che quando si va in campo poi e si dà quello che uno sa dare, la partita la vince, per cui la Spagna dovrà avere paura di noi. Quello che conta oggi è portare il cuore in campo, portare la serenità. E questa è una nazionale che ha un bel allenatore, ha un bello staff e bravi giocatori, io ci credo. Noi non dobbiamo porci nessun divieto, noi dobbiamo arrivare fino in fondo sapendo che ce la possiamo fare, sapendo che pure gli altri sono bravi, e andare avanti il più possibile, perché abbiamo tutti i presupposti. Dobbiamo credere, dobbiamo essere, come diceva l'inventore di Apple, folli affamati, tutti e due. Folli affamati, speriamo naturalmente che lo siano i nostri nazionali che fra poco incontreranno la Spagna, speriamo che lo sia anche Fernando Alonso. Gran Premio del Canada, facciamo una piccola parentesi prima di tornare naturalmente sulla nazionale di calcio. Pole position per Vettel, che precede la McLaren di Hamilton e la Ferrari proprio di Alonso. Poi c'è Weber, sesto tempo per Massa. Caro Mario Poltronieri, buongiorno. E allora, affamato e folle anche Fernando Alonso? Ciao Claudio, sì, Alonso naturalmente ti fa per la sua squadra, ma diciamo che normalmente Alonso è sempre molto misurato nelle sue dichiarazioni. Questa volta ha dato l'impressione di essere soddisfatto dei miglioramenti che sono stati fatti alla macchina, considerando che lui è indiscutibilmente in questo momento il pilota globalmente più forte. Come sensibilità sulle condizioni della macchina, come strategia in corsa per quello che lo riguarda, i box bisogna vedere. Qui tra l'altro magari i box conteranno meno, perché pare che alcuni possano scegliere un solo cambio gomme. Il circuito in sé per sé è piuttosto impegnativo, non ha molti spazi di fuga, impegna molto i freni, infatti alcuni hanno degli impianti frenanti apposta. E la velocità in certi punti è molto elevata, quindi ci sono anche dei rischi, diciamo. Comunque è una corsa che ha un suo fascino, anche perché siamo a diciamo un mese dall'anniversario della morte di Gilles Villeneuve, al quale è intitolato il circuito e scritto sulla casco di Alonso. La partenza sarà determinante senza dubbio, però, perché c'è un pacchetto di mischia con Vettel, Alonso, Hamilton e Webber, e tutti e quattro vorrebbero sicuramente prendere il comando, perché chi riesce a prendere il comando su questo circuito effettivamente ha dei vantaggi notevoli. E sugli altri c'è da vedere, perché per esempio è rimasto fuori Button, ha avuto molti problemi alla macchina, ha avuto dei problemi Raikkonen, che è un altro dei vecchi campioni dei mondi rientranti, che dà la sensazione però di poter fare meglio di Schumi. Però la situazione direi è di una gara che comunque, come questo inizio del campionato, si presenta molto interessante. È la gara che apre, diciamo, il secondo terzo del campionato. 20 gare ne sono state disputate complessivamente, sai, questa è la settima gara, e quindi è un inizio di una seconda fase che potrebbe chiarire finalmente chi è il superiore, perché oggi, come dico, le gare fatte fino adesso sono state vinte sempre da un pilota diverso: Button, Alonso, Rosberg, Vettel, Maldonado e Webber. Questi nomi fanno anche capire che ci sono anche dei giovani che possono apparire se la macchina va bene, che è il caso per esempio di Maldonado con la Williams. Anche la Lotus sta andando bene, sono altri grossi nomi che tornano in circuito. Quindi direi che è un campionato che si presenta molto aperto. Naturalmente noi dobbiamo sperare per la Ferrari, non solo per la Spagna. Assolutamente, grazie Mario, grazie. Ci risentiamo poi nei prossimi giorni anche per commentare questo Gran Premio del Canada che comincia stasera alle 20, per chi vuole vederlo diretta su Rai 2, poi dalle 20 e 25 passerà su Rai 1, perché c'è naturalmente l'Europeo di calcio e Irlanda-Croazia. Intanto Roland Garros con la finale fra Nadal e Djokovic, che è sospesa per pioggia, con Nadal avanti 6-4 nel primo set che ha vinto, e poi 5-3 nel secondo. Ci fermiamo, c'è il tempo. A tempo di sport. 800 24 00 24 per chi volesse intervenire. Claudio Arrigoni per Radio 24 a parlare di sport, in particolare di nazionale oggi. Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantatori in regia. Due sms intanto che sono arrivati al 349 238 6666. Il primo dice: Napolitano ha detto che solo una delle due può vincere, non esiste il pareggio. Beh sì, effettivamente il pareggio potrebbe essere un'opzione per la partita di oggi, che può andare bene per entrambe le squadre, perché come avete sentito poco fa da Pierluigi Pardo, poi soprattutto l'Italia la qualificazione se la gioca nelle prossime due partite. Un altro sms da Mauro: sì, ok, tutto bene, ma Buffon su chi ha scommesso? Un po' ironico questo su quello che è successo nei giorni scorsi. Il capitano della nazionale effettivamente scommette, anche se solo sugli altri sport, non è una bellissima immagine del calcio italiano, ma questo l'abbiamo detto già diverse volte anche in precedenza. Per chiudere sulla Formula 1, abbiamo sentito Mario Poltronieri sul Gran Premio del Canada che comincia alle 20 di questa sera. Andiamo a sentire sulle qualifiche positive della Ferrari proprio le parole di Fernando Alonso. Sì, molto in forma, soprattutto per le cose, per le novità che abbiamo portato qui. La macchina sembra di aver migliorato molto. Era un circuito dove non avevamo tantissima fiducia, un circuito forse simile all'Australia, dove eravamo un secondo e mezzo della pole position, e qui abbiamo lottato per i top 3, no? Quindi questo ti dice un po' quanto ha migliorato la macchina, perché gli altri non sono stati fermi, quindi un bel progresso. Terzo, sicuramente una buona posizione per attaccare e per rimanere ottimisti. Non è una pista storicamente che la pole position è 100% vittoria, perché si può sorpassare, perché le strategie sono sempre molto aperte qui, il degrado delle gomme sarà alto domani con la temperatura, quindi rimane tutto aperto, vediamo di lottare fino all'ultimo giro. Eh sì, speriamo di lottare fino all'ultimo giro, però Alonso che guida comunque il campionato mondiale sicuramente fra i favoriti anche per questo Gran Premio del Canada, viste anche come sono andate le prove. Prima di tornare al calcio, piccolo spazio anche riguardo al basket, poi avrete tempo di approfondirlo più tardi con Dario Ricci dalle 20, ma solo due parole riguardo alla finale dell'NBA, dove è arrivata Miami che ha vinto la finale di Conference Est battendo questa notte i Boston Celtics 101-88. Ancora una volta mattatore della serata LeBron James, 31 punti, Wade si è fermato a 23, Chris Bosh a 19 per i Celtics, Rondo 22 punti, 10 rimbalzi e 14 assist, quindi finale inedita naturalmente, visto che ci è giunta Oklahoma e Miami che se la gioca per la seconda volta, finale anche per il campionato italiano, e qui come da pronostico ha vinto la Montepaschi Siena ieri sera sull'Armani 86-77, ma ha vinto lasciando intravedere possibilità per l'Armani. Andiamo a sentire coach Pianeggiani. È gara 1, sapete, dico sempre poco, a maggior ragione in una gara, in una serie al meglio delle 7. Oggi una partita molto buona da parte nostra, dove non abbiamo mai rischiato, è stata una partita che abbiamo prodotto tanto anche contro una difesa importante come quella che Milano aveva negli ultimi mesi, abbiamo segnato tanto fin dall'inizio e poi quando la partita sembrava in controllo ci siamo un po' innervositi e fermati su quel tecnico Moss che ha un po' ricambiato l'inerzia e lì abbiamo un po' fermato la palla in attacco, allora un paio di contropiedi, però insomma abbiamo avuto la forza mentale, la presenza mentale che avevamo messo nella partita per creare separazione nel fare due o tre difese importanti. Eh sì, con Siena che vince, ma forse convince meno di altri anni, e le parole di Sergio Scariolo invece per l'Armani Milano, Armani che ha fatto vedere delle buone cose e quindi già per gara 2 di domani sera si potrebbero avere delle sorprese. Poco da dire, complimenti alla Montepaschi, hanno giocato meglio, sono stati più intensi fin dall'inizio, la loro difesa è stata migliore, hanno preso anche qualche rimbalzo in più, basta, bravi loro, noi non abbiamo mollato, siamo arrivati a un tiro da sotto da almeno 3 con tanto tempo davanti ancora per poter giocarci il finale punto a punto, avevamo accumulato uno svantaggio probabilmente troppo importante prima, ma nonostante questo abbiamo dimostrato di avere carattere, personalità, strumenti tecnici e tattici per giocarcela e niente, complimenti a loro, bravi loro, più bravi loro senz'altro, ripartiremo domani con qualche aggiustamento ovvio e obbligatorio e proveremo a giocarcela secondo me. 800 24 00 24 per chi volesse mettersi in contatto con noi. Vi ricordo le novità della partita di questa sera Italia-Spagna, non ci sono per quanto riguarda la formazione italiana, Balotelli Cassano davanti con De Rossi in mezzo alla difesa, dietro ci sono invece per quanto riguarda la Spagna, non gioca Torres, Fabregas sarà un po' utilizzato da punta ma nessuna punta titolare per la squadra di Del Bosque. Benvenuto a Enrico De Santis, telecronista di Mediaset, buongiorno Enrico. Buongiorno Claudio, buongiorno. Allora, prima di parlare della partita che hai commentato ieri sera per Mediaset Premium, cioè Sampdoria-Varese, il ritorno della Sampdoria in Serie A, vorrei da te un commento su questa novità spagnola in particolare e su cosa può cambiare anche nelle indicazioni tecnico-tattiche di Prandelli. Bella domanda, sicuramente una grande sorpresa quella di trovare una Spagna senza un punto di riferimento offensivo vero e proprio, bisognerà vedere come saranno in grado i nostri difensori di leggere questa novità tattica, qualche problema potrebbero crearcelo perché con gli inserimenti dei centrocampisti e con il gioco, con i tagli degli esterni potrebbero mettere in seria difficoltà i nostri giocatori. Io preferisco non avere di fronte Torres piuttosto che Llorente e avere Fabregas come riferimento centrale, poi il campo della sua. No, questo indubbiamente, cioè pensare che non ci sia una punta di ruolo, ma soprattutto non ci sia Torres, io credo che francamente anche avere lo spauracchio lì davanti, ma naturalmente Del Bosque ha le sue buonissime ragioni, poi fra l'altro non è che l'abbia sostituito con gente di poca qualità. Torneremo fra poco sulla nazionale, ma apriamo una piccola parentesi perché Enrico De Santis ha commentato per Mediaset Premium ieri sera Varese-Sampdoria dunque che torna in Serie A. Ti faccio ascoltare le parole del presidente Garrone. Eravamo in pochi a crederci a gennaio, ma soprattutto tra i pochi c'erano tutti i nostri collaboratori, a partire dal direttore sportivo che è qua, che ha trasferito, come dire, tutta la grinta, la concentrazione necessaria alla squadra, che ha dimostrato di fare un forcing straordinario negli ultimi tempi. Allora Enrico, è un ritorno che prevedevi, un ritorno atteso questo della Sampdoria, visto anche il campionato di Serie B di quest'anno? Assolutamente no, ha detto bene Garrone, eravamo in pochi a crederci, compresi noi media, perché la Samp aveva chiuso il girone d'andata con un grigio 12° posto, era a una decina di punti, forse anche oltre, dalla zona playoff. Poi invece nel girone di ritorno, grazie anche agli innesti di mercato importanti della famiglia Garrone, è riuscita a compiere una rimonta pazzesca, è riuscita a conquistare 41 punti nel suo girone di ritorno, è arrivata sesta proprio all'ultimo respiro, e si pensava che forse questa grande rincorsa potesse aver tolto molte energie alla squadra di Iachini, che invece si è giocata con estrema lucidità ai playoff e a mio parere ha anche conquistato la promozione con merito, magari non mostrando un gioco di grandissima qualità. Il Sassuolo e il Varese hanno mostrato qualcosa di meglio forse nel corso della stagione e anche nel corso dei playoff, però la Samp ha usato le armi che vanno usate nei playoff, nelle gare decisive, cioè grande lucidità, grande concretezza, e con merito è tornata in Serie A dopo una sola stagione. Quindi io penso che vada fatto un applauso alla società che ha creduto in Iachini, nonostante l'inizio non fosse stato sicuramente dei migliori, perché ricordiamo che Iachini ci ha messo 7 partite per vincerne una, ha incominciato con 2 pareggi e 4 sconfitte, si parlava di Iachini a rischio, invece la società ha fatto bene a credere su di lui, ha ovviamente dato una mano al tecnico intervenendo pesantemente sul mercato di gennaio con degli innesti che poi si sono rivelati decisivi per questa promozione che riporta la Samp in Serie A. Purtroppo una promozione che ha portato anche ad alcuni scontri a Genova, ci sono stati 5 doriani feriti, 3 sono molto gravi in ospedale. Andiamo a sentire Gastaldello, il capitano della Samp. Siamo partiti con i migliori propositi, che dovevamo ammazzare il campionato, invece abbiamo fatto i primi 6 mesi in maniera disastrosa, e poi a gennaio c'è stata una svolta dentro di noi, dentro la società, ci siamo guardati negli occhi e siamo ripartiti. Sicuramente abbiamo avuto anche un po' di fortuna, però il grosso merito va a noi che ci abbiamo sempre creduto, abbiamo lottato, abbiamo rincorso appunto perché eravamo in svantaggio di parecchi punti, e adesso siamo qui che ci godiamo questa promozione che per me è spettacolare. Senti Enrico, hai seguito molto il campionato di Serie B quest'anno, Zeman ha dato un grande impulso al campionato, grande spettacolo, arriva la Roma, che cosa ti aspetti? Beh, sono molto curioso di vedere questa seconda vettura di Zeman sulla panchina della Roma. È uno Zeman che ha cambiato qualcosa rispetto all'ultimo Zeman di Serie A, c'è forse un po' più di equilibrio nelle sue squadre. Chiaramente noi sappiamo che le squadre di Zeman sono delle macchine da gol, il Pescara ha segnato qualcosa come 90 gol in campionato, che sono una cifra pazzesca. Ha dato un po' più di equilibrio, penso che ci sia anche del materiale umano dal punto di vista dei giocatori che si sposa bene con le sue idee tattiche. È chiaro che però la Roma deve migliorare molto come uomini in fase difensiva, perché la difesa di quest'anno francamente era la difesa da metà classifica, quindi se riuscirà ad intervenire bene sul mercato, io ho abbastanza fiducia, perché hanno dei dirigenti molto preparati che conoscono molto bene il calcio, conoscono molti giocatori, parlo di Sabatini, di Baldini, Pellegrini, io penso che la Roma davvero potrà diventare una pretendente seria ai primissimi posti in classifica per il prossimo campionato. Un quarto d'ora alla partita dell'Italia con la Spagna esordio in questo campionato europeo. Enrico, mi dai il tuo pronostico? Ah, io non sono molto bravo nei pronostici. Nessuno di noi. Vedo un'Italia che comunque, nonostante l'ultima amichevole non sia andata assolutamente bene, è un'Italia molto interessante, un'Italia con molta qualità a centrocampo contro una squadra che ovviamente della qualità fa il suo credo. Io penso a un robusto pareggio che potrebbe essere sicuramente ben accolto dai nostri. Un pareggio che potrebbe andare benissimo, grazie Enrico De Santis, grazie a te, buon lavoro a Mediaset. 800 24 00 24, per chi vuole chiamare, e poi gli sms al 349 238 6666. Traffico. A tempo di sport. 800 24 00 24, meno di un quarto d'ora all'inizio di Italia-Spagna, con la grande novità della Spagna che gioca senza una punta di ruolo, Fabregas al posto di Torres nell'attacco spagnolo. Buongiorno a Gigi Garanzini, ti sorprende? Sì, abbastanza, perché io non mi aspettavo magari Torres, cioè, però Negredo o quell'altro, Llorente magari sì, ecco, questo sì. Del Bosque ha scelto una formula Barça in piena regola, no? E boh, vediamo che effetto fa. Certo, vorrà dire che terranno palla ancora di più, vorrà dire che saranno ancora più imprevedibili, e vorrà dire che secondo me questa è una contromossa tattica preventiva alla difesa a tre, perché vuol dire cercare di far sprecare i difensori all'Italia palleggiando e quindi non dando riferimenti di marcatura. 349 238 6666. Io Gigi mi aspettavo invece Torres, mi aspettavo che ci fosse un punto di riferimento lì davanti, ma non è che Del Bosque pensa alle partite successive più che all'Italia in questo caso? Credo che ho molta stima di Del Bosque, quindi non penso che commetta questo errore di sottovalutazione. Lui è uno che ha molto rispetto degli avversari in genere, non può non averlo di un avversario tradizionalmente difficile come l'Italia. A parte che la Spagna non batte l'Italia nel 1920, se parliamo di mondiali o europei, e quindi insomma basta un ripassino alla storia per capire che non è il caso. Non ci hanno battuti nemmeno 4 anni fa, nel senso che finì 0-0 e poi va bene, vissero i rigori. Non credo che sia una sottovalutazione, credo invece che nessuna delle tre soluzioni, Torres, Negredo e quell'altro, e Llorente, lo soddisfacessero fino in fondo, e poi sarà evidentemente una mossa eventualmente a partita iniziata, quella di inserire una o magari anche due punti. Sì, questo è assolutamente possibile. Com'è possibile naturalmente un cambiamento sia di uomini ma anche di modulo per l'Italia, con Prandelli che ha detto già alla vigilia, che lo avrebbe detto anche oggi, che comunque tre cambi ci saranno in ognuna di queste partite. Tu vedi possibilità anche proprio di un cambiamento di modulo all'interno della stessa gara, Gigi? Sì. Io credo che se Prandelli si dovesse accorgere che davvero loro giocano in maniera così palleggiata e vanno avanti senza riferimenti avanzati, potrebbe anche darsi che a quel punto uno tra Bonucci e Chiellini fosse di troppo, no? E quindi sì. Potrebbe. Però sai, quando la partita comincia, poi in realtà tutte le alchimie del dopo, i cambi, non i cambi, eccetera, è la partita a dettartele, la partita stessa non è più la strategia della vigilia, no? Non è più quella dell'attesa, diventano mosse operative, allora adesso sono un po' difficili da indovinare. Certo, quella di Del Bosque è indubbiamente una mossa a sorpresa, non valutarne la portata è difficile, è ragionevole pensare che si muoveranno un po' alla maniera del Barcellona, cioè con quel tic tic toc che però senza una punta che ti dia profondità rischia di essere sterile, certo. perché poi non hanno Messi davanti. Sì, perché poi sai, Barcellona fa il tic-tic-tic, però poi alla palla arriva la pulce, palla dopo arriva un po'. Fenomeno che ieri sera mi pare abbia segnato 3 gol al Brasile, no? Sì. Tanto per tenersi in esercizio. E allora poi il film cambia con Messi, con Fabregas cambia meno, Sì, assolutamente. Certo, per noi c'è questa incognita di De Rossi in mezzo alla difesa, a comandare la difesa. Fra l'altro, un sms che è arrivato al 349-238-6666 richiama in causa Zeman, che ieri ha detto: ma io De Rossi però lo vedo soltanto in mezzo al campo. Dice Massimo: Zeman è un tecnico che va bene per squadre di seconda e terza fascia, a montagne di gol fatti ne corrispondono montagne di gol subiti. Del resto, il suo top di carriera sono state le polemiche sul falso doping UE, va bene, queste polemiche naturalmente noi le lasciamo da parte. È vero che Zeman sulle grandi squadre lascia sempre qualche perplessità. È anche vero che la sua fase difensiva non è il massimo della vita, e quindi qui la scelta di Prandelli di schierare comunque De Rossi in una partita d'esordio, De Rossi in mezzo alla difesa, è una scelta comunque un po' azzardata. Questo sì, io la capisco e la trovo una scelta obbligata, francamente, e mi piace, però è comunque una scelta azzardata, Gigi. Ma io invece la dopo aver visto Italia-Russia la condivido in pieno. No, anch'io Gigi, la condivido e la trovo, ti ripeto, una scelta obbligata, azzardata nel senso che non l'abbiamo mai, lui sicuramente l'ha visto e l'ha provato tante volte, ma in una gara ufficiale non abbiamo mai visto la formazione. Ma non giocherà a questo punto, in base a come la Spagna si è disposta, non giocherà in mezzo alla difesa, giocherà davanti alla difesa a questo punto, perché è assolutamente inutile che stia là, così, ripeto, è sempre la vigilia, è sempre sulla carta, certo, che stia là rintanato. Sarà uno in più invece che si aggiunge a metà campo per fare densità lì in mezzo e cercare di intercettare palloni sul loro TikTok. Quindi la vedi... Farà il centrale davanti. E questo mi sembra molto bello. Vedendo invece la nostra fase offensiva, ti convince Balotelli Cassano davanti o ritieni che comunque siano una coppia di inizio partita e poi comunque vada cambiata? Sai, Balotelli è sempre un punto interrogativo, no? Quindi Balotelli può darsi che tu debba cambiarlo per tante altre ragioni, mi auguro di no, perché è l'unico vero grande attaccante potenziale di cui l'Italia dispone di livello internazionale, potenziale. L'altro mi lascia un po' perplesso, adesso vediamo, non è che manchino i cambi tra Di Natale e Giovinco. A me mi avrebbero convinto di più in partenza, però insomma è lui e Prandelli che li vede dalla mattina alla sera. È lui che sa valutare, lui è in testa questa coppia da tantissimo tempo, è arrivata l'occasione di provarla in una gara che conta e la prova. Sì, fra l'altro io sono abbastanza d'accordo su Giovinco, fra l'altro la notizia di oggi interessa molto all'Inter. C'è un sms che è arrivato 349-238-6666, io qui non vorrei dare risposta, non so cosa ne pensi tu Gigi, ma dice: ritenete affidabile l'arbitro di Spagna-Italia, che fra l'altro è l'ungherese Cassal, se cominciamo prima della prima partita a parlare di arbitraggi e di affidabilità degli arbitri, non cominciamo benissimo, Gigi. Beh, insomma, è vero, cioè è ampiamente condivisibile, è anche vero che non siamo più prima della prima partita, ne abbiamo viste quattro. Sì, giusto. La prima delle quattro è stata arbitrata da Cani, dallo spagnolo, perché quel povero greco non solo non meritava due ammonizioni, ma non ha nemmeno commesso i falli, per il mio. E insomma, qualcosina da discutere c'è. Ieri sera c'era quasi certamente un rigore per l'Olanda, e per carità, si può. Io di Cassai mi fido molto, perché io toglierei il quasi certamente, ma hai ragione sul fatto del comunque di poter discutere anche gli arbitri. Beh, certo, lo trovo sempre un po' triste, però è vero, accade. Parliamo di partita e quindi parliamo anche di arbitri, perché ci sono anche loro, e quindi così come si giudicano e si valutano i calciatori, si valutano anche loro. È giusto non partire da lì, certamente. Mi auguro che con Cassai non si debba partire da lì, perché lui continua la tradizione dei grandi arbitri ungheresi. Uno dei più grandi arbitri di tutti i tempi è stato senza dubbio Palotai, che non a caso era un ex calciatore che ha avuto una stupenda carriera in Ungheria e poi si era messo a fare l'arbitro, è arrivato fino a tarda età ed è stato uno dei più bravi di sempre. Speriamo che Cassai sia degno di questo suo predecessore. Lo speriamo tutti, grazie Gigi, buona Italia-Spagna a te, buona Italia-Spagna anche ai nostri ascoltatori. Fra pochissimo, vi ripeto, su Rai 1, poi a seguire Irlanda-Croazia, anche questa da seguire con trapattoni, naturalmente, quindi avremo da fare il tifo anche in Irlanda-Croazia. Grazie dunque a Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadori in regia, buona Italia-Spagna.